24 mattino con Irene Gerbini. Martedì 4 agosto e vogliamo sapere anche oggi come ci vivono, come ci leggono, come è vista l'Italia all'estero. Facciamo tappa oggi a Stoccolma. Per la precisione ci andiamo grazie al giornale Dagens Nyheter e al suo corrispondente dall'Italia, che ringrazio, Peter Löwe. Buongiorno Peter. Buongiorno. Da quanti anni sei in Italia? Ormai sono già 24 anni, insomma è una vita, che vuol dire che amo e mi trovo bene nel vostro paese, a Roma. Ci sei capitato per caso? È stata una scelta? Pensavi fosse interessante dal punto di vista giornalistico quando hai iniziato questa attività? Ma sicuramente non per caso, ero anche stato molto in Italia con i miei da piccolo, poi ero venuto un po' di anni prima a studiare l'italiano a Roma, per cui abbastanza programmato, diciamo che sono venuto per amore. Era il mio sogno vivere a Roma, che tuttora considero una delle città più belle e affascinate del mondo. Se dovessimo fare un parallelo tra Roma e Stoccolma, cosa hanno da imparare l'una dall'altra le due realtà? Io dico sempre che sono abbastanza opposti, insomma, forse era tratto l'erba del vicino più verde. Ovviamente Stoccolma è una città più ordinata, più dove si rispettano più gli spazi comuni, verde, l'ambiente, dove per esempio c'è l'antenna TV centrale in ogni palazzo, dove c'è il servizio, lavanderia condominiale, per cui pochissimi hanno la lavatrice proprio in casa, mentre in Italia siete più individualisti e dunque non c'è così. Penso che trovo che l'Italia qualche volta nel suo caos, che è un grande difetto purtroppo, ha qualche vantaggio, forse una certa elasticità, diciamo, come risolvere il problema, che può essere qualsiasi cosa anche su livelli di alto livello, come la vita quotidiana, come se fosse questa grande città a Roma, ciascuno ha bisogno di una rete di protezione individuale. Tu vai sempre nello stesso magari mercato a fare la spesa, un giorno non hai spicci, il giornalaio ti dice vabbè, paghi la prossima volta. E questo direi che è abbastanza impensabile, almeno in una grande città come Stoccolma. Stoccolma che ha circa 760.000 abitanti, sì, dico però bene? Con le borgate, con le periferie, direi che insomma è 1,5 milioni di persone che si muovono in quella zona. Sai, approfittiamo della tua presenza non solo per capire come l'Italia sia vista all'estero, ma anche per capire di più della realtà dalla quale tu provieni, che tra l'altro è sempre il simbolo, l'icona del progresso e della democrazia, in cui si realizza anche l'assistenza sociale, il welfare. È sempre un esempio d'efficienza la Svezia, e molti rimangono così stupiti nel considerare che la forma di governo sia una monarchia parlamentare in Svezia. Sì, però è una monarchia, diciamo, di rappresentanza, insomma fa pubblicità per la Svezia, non ha nessunissimo potere come possa avere in Inghilterra. La monarchia, il re non interviene neanche in una crisi di governo, non apre più il Parlamento, insomma, però tutti ormai sono ovviamente molto gasati nel fatto che ci sarà il matrimonio dell'erede, della principessa Vittoria, a giugno l'anno prossimo. Non c'è un movimento repubblicano? Sì, c'è il partito più grande dei socialdemocratici, anche se adesso non sono a governo, comunque loro hanno sempre il loro programma e l'idea della Repubblica, ma anche quando sono stati a governo per decenni non è mai stato proposto seriamente. Esiste lì, però la monarchia, direi, insomma, i CD si sono abbastanza contenti, amano il re, anche se non, ovviamente non è la devozione che si trova in Inghilterra, direi, però sembra che la gran parte dei sedisi, anche se ufficialmente non sono d'accordo, pensano insomma che fanno un buon lavoro. Sì, nell'opinione pubblica è abbastanza accettata questa figura, sì, mi sembra. Sì, abbastanza, non ho una cifra precisa, però direi oltre il 50%, insomma, sono contenti. E dunque non è il primo problema. Ora, soffermiamoci sull'Italia. Quando tu, Peter Löwe, scrivi dell'Italia, su quali tematiche ti concentri soprattutto? Ma io mi faccio una cosa molto mista dall'attualità, che potrebbe dividersi ovviamente dalla politica, di Berlusconi, che fa molta notizia all'estero, il Papa, soprattutto qualche volta quando prende posizioni che non sono, diciamo, conforme con il resto del mondo, fuori la religione, anche penso delle Nazioni Unite, qualche volta fanno notizie, diciamo, anche le associazioni di criminalità, le mafie, l'andrangheta, questa cosa che hanno infiltrato Roma in alcuni ristoranti, bar, ovviamente fanno notizia all'estero. Poi faccio anche parecchi servizi su Made in Italy, delle cose belle di viaggiare, di vino, di gastronomia, qualcosa anche di cultura, di cinema e moda. Per esempio, l'ultimo articolo che hai scritto, quello a cui stai lavorando, di cosa tratterà? Ma io sono stato in vacanza a Stromboli, che è un'isola magica, è sempre il vulcano più attivo del mondo. Insomma, sto facendo un pezzo su questo, che è ancora un posto meraviglioso di cui andare in vacanza anche d'agosto, perché ci sono pochissime macchine e si sta veramente bene. Di scrittori, per esempio, del mondo culturale italiano, cosa si conosce in Svezia? Ma diciamo, si conosce forse i classici di una generazione che non c'è più, diciamo, da Moravia, da Sciascia. Adesso ci sono un po' di gialli anche tradotti, che è un bel scambio culturale, perché visto che l'Italia è stata inondata da vari scrittori giallisti svedesi, soprattutto adesso questo boom di Stieg Larsson, che c'è più, ma anche Sellerio ha ristampato un classico come Sjöwall Wahle, per cui adesso c'è qualcuno italiano che viene pubblicato, anche Gianrico Carofiglio, per esempio, è stato tradotto un suo giallo, e ovviamente Camilleri. Quindi due nomi più popolari dal punto di vista culturale, che si associano all'Italia adesso per lo svedese, sono Carofiglio e Camilleri. Sì, Camilleri è un libro, insomma, prendo come esempio, invece a Montalbano abbiamo visto anche nella televisione, più conosciuto. Conosciuto appunto come scrittore, Carofiglio, e non credo tanto per la sua attività politica, senatore del PD, questo interessa poco agli svedesi. Ma devo anche dire che, quanto ho visto io, ha tenuto finora un profilo molto basso, abbastanza come deputato. Ho visto poche interviste in cui si è fatto, diciamo, sentire, che trovo un po' curioso e interessante. Una persona che magari volentieri farei un'intervista, magari vediamo, non ho fatto richiesta, vediamo. Da questa intervista ti verrà anche uno spunto per il prossimo articolo. E il difetto più grande dell'Italia, visto da Peter Löwe, che ci vive da 25 anni, però hai sempre questa prospettiva, quest'occhio alieno, diverso, che a volte coglie aspetti che gli indigeni, diciamo così, chi vive su un territorio non coglie. Sì, ma ce ne sono tanti. Quello che mi inquieta di più è che vedo tanti amici, magari un po' più giovani di me, intorno ai 30, che non riescono, laureati, che non riescono a avviarsi alla vita professionale. Anni fa in Italia non arrivi quasi nessuna parte senza raccomandazioni. Anni fa mi ricordo, chiamando in Telecom per una chiamata internazionale, beccavi persone che non parlavano inglese. Oggi dire avere, non basta essere raccomandato, bisogna anche avere delle qualifiche, però senza raccomandazioni non arrivi da nessuna parte. E non è un fatto politico legato a questo governo o a quello precedente, era uguale quando c'erano i socialisti, i Craxi, quando c'era la sinistra, il DS o Partito Democratico, e specialmente forte nel settore giornalistico. Questo ha come effetto che l'Italia ha tanti giovani che non riescono a cominciare la loro vita professionale, che non riescono a farci una vita indipendente, visto che anche la crisi economica, ma visto anche i costi, e questo credo avrà dei danni pazzeschi su questa società. Condannati a un'infanzia che si trascina, ed è paradossale che proprio in Italia, fino a 30 anni fa, l'adolescenza quasi non esisteva, nel senso che immediatamente si diventava uomini, si contribuiva. Sì, si diventava giovani, sì. Adesso sono tanti trentenni, ma anche quarantenni, accademici, che più al sud che al nord, ovviamente, che vivono a carico dei genitori. E spesso non per scelta. Direi che è normale che un giovane va via di casa tra i 18 e i 20 anni. Nel resto del mondo. e comincia a considerarsi un uomo, una donna, con tutte le responsabilità che questo comporta e a volte spesso le difficoltà. Cioè tu ti aspettavi di vedere rispetto a questa problematica una ribellione forse maggiore, un cambio di mentalità? Ma non so, sì, l'italiano giovane è più indipendente di noi, è dovuto anche da un fatto della scuola che non funziona come dovrebbe per quanto riguarda le lingue. Qualcosa è cambiato in questi anni, i giovani hanno sentito l'attrazione dell'inglese prima, credo, andando in discoteca per capire cosa dice la canzone che stanno ballando. Oggi capiscono che l'internet, che c'è assolutamente bisogno, i programmi importanti sono in inglese, comunicare, stanno a chattare e capiscono che senza lì con l'italiano sono isolato, non riescono a trovare e parlare con persone da altre parti del mondo. Qualcosa sta cambiando e ti aspetti ci sarà un'accelerata. Grazie, perché non ci hai parlato dei soliti cliché di sole, cucina, cibo, che senza dubbio fanno parte. Sono amori miei scontati, insomma. Delle caratteristiche che fanno innamorare gli stranieri dell'Italia, ma sono a volte dei paradigmi un po' riduttivi. Peter Löwe, buon lavoro naturalmente. Grazie. Quando passeremo da Stoccolma daremo anche una controllata ai tuoi articoli per vedere cosa esporti. Intanto buona permanenza a Roma. Grazie mille. Ed era il corrispondente della Dagens Nyheter. Continueremo con questa rubrica, sentiremo sempre corrispondenti stranieri alle 7:15 del mattino, un po' per guardarci allo specchio, per vedere come gli altri vivono l'Italia e gli italiani, aspettandoci anche delle sorprese. 26 minuti trascorsi dopo le 7, state ascoltando Radio 24, 24 mattino, al microfono Irene Zerbini. Tra pochissimo il caporedattore centrale del Sole 24 Ore, la colonna del giornale, già con noi in studio, farà la quotidiana lettura dei giornali e dunque la rassegna stampa, e poi continueremo con tematiche d'attualità. All'Italia o all'Italia CAI, nonostante il cambio, continuano i disagi per i passeggeri, l'overbooking, cioè la prenotazione in eccedenza dei posti su un dato volo, ha creato l'inferno a Fiumicino domenica. Le code all'aeroporto o le giornate rovinate meritano rimborsi, e soprattutto i clienti li chiederanno questi rimborsi o dimenticheranno l'imprevisto, preferiranno affrontare altre noie? Lo sentiremo nel corso della trasmissione. Andremo anche in Pakistan, perché le immagini della televisione nazionale in Pakistan hanno mostrato macerie, case in fiamme, immagini che poi hanno fatto il giro del mondo, sono state riprese nel villaggio di Korian, nella città di Goria. Si trova a ovest di Lahore, per la precisione, in Punjab, la parte pakistana del Punjab. 6 cristiani sono stati dati alle fiamme, tra loro c'erano anche 2 bambini. A una festa di matrimonio, proprio i bambini, sembra, avrebbero lanciato dei coriandoli, dei pezzi di carta, e secondo alcuni estremisti erano pezzi del Corano, cioè pagine strappate, un oltraggio presunto che ha scatenato la violenza. La legge sulla blasfemia punisce anche con la morte qualsiasi oltraggio all'Islam, che è la religione di Stato, e noi abbiamo chiesto all'ambasciatrice del Pakistan in Italia, Tasneem Aslam, perché il governo non rimuova queste leggi. Sentiremo anche le sue risposte e tanto ancora dopo la rassegna stampa. 24 mattino. 349-238-6666 per i vostri sms. 16 minuti trascorsi dopo le 8. Scuole e università cristiane in Pakistan rimarranno chiuse per 3 giorni in segno di lutto per l'omicidio di 8 persone della loro comunità nel paese a maggioranza musulmana. Cosa è successo? Qual è la posizione del governo pakistano? E soprattutto, il Pakistan è un paese sicuro anche per viaggiarci in questi giorni? Ne discuteremo in 24 mattina. Prima però parliamo di una fermata forzata, quella che hanno dovuto subire i passeggeri di Alitalia. Si sono ritrovati ad aspettare anche fino a 12 ore in alcuni casi a Fiumicino. Domenica la rabbia è esplosa e a poco è servito che i colletti bianchi, diciamo così, i manager della compagnia, si siano messi a disposizione per scaricare i bagagli. Hanno fatto parte di una sorta di task force per alleviare i disagi dei passeggeri. L'overbooking ancora nel mirino, cioè questa prenotazione in eccedenza dei posti su un dato volo, ha creato grandissimi disagi, ma soprattutto ci si chiede, i clienti ora chiederanno i rimborsi, chiederanno le tutele o semplicemente dimenticheranno l'imprevisto e preferiranno dedicarsi alle vacanze o ad altre problematiche della vita quotidiana se sono ripartiti? L'abbiamo chiesto proprio a uno dei protagonisti, anzi una, perché è una signora, Antonella Bonanome, benvenuta a Radio 24, buongiorno. Buongiorno. E lei, Antonella, è rimasta intrappolata in queste file di Fiumicino, ma esattamente cosa le è successo? Veramente le file non c'erano perché l'aeroporto nazionale, voli nazionali, noi dovevamo andare a Brindisi, era veramente tutto tranquillo, siamo arrivati al check-in dell'Alitalia con un'ora e 45 minuti di anticipo per un volo nazionale, è veramente essere più che previdenti. E non c'era fila, non c'era nulla e ci siamo ancora fino a quel punto, quindi eravate sollevati e contenti di partire. E invece ci hanno detto che c'era l'overbooking. E quindi noi mezz'ora prima del volo che avremmo dovuto prendere stavamo al banco della sala proprio per l'overbooking destinato a ciò, dello standby, e insieme a noi c'erano decine di altri passeggeri prenotati con biglietto regolare su Brindisi che erano anche loro in overbooking. Lo stesso vale per passeggeri sulla Lamezia Terme, Bari, Palermo, Catania, Alghero, quindi non come leggo scritto da qualche manager che erano solo una decina i voli destinati dove è accaduto l'overbooking, ma c'è stato un overbooking notevolissimo solo sui voli nazionali, non posso immaginare su quelli internazionali e intercontinentali che cosa possa essere successo. Si è dato più risalto infatti ai voli internazionali, intercontinentali e ai disagi di questo tipo di passeggeri. Lei, le faccio una domanda sola, signora Bonanome, ha scritto al Messaggero, quindi ha deciso di denunciare quanto le è capitato, potendo scegliere in futuro per un prezzo analogo sulla prossima vacanza, sul prossimo spostamento, sceglierà l'Italia per volare italiano? Guardi, purtroppo noi dobbiamo andare spesso a Brindisi e su Brindisi opera solo Alitalia e le dico purtroppo perché è un cappio che abbiamo al collo da 2 anni e che crea grossi problemi, anche perché l'Alitalia fa quello che vuole, compreso alzare i prezzi in maniera anche allucinante nei periodi in cui gli fa comodo. E qui ritorniamo al discorso che in Italia il cittadino purtroppo non è rispettato. Questa è la cosa, al di là del rimborso che c'è stato e che forse ci sarà anche sul biglietto di ritorno non utilizzato perché noi non siamo mai andati a Brindisi, dovevamo tornare la domenica sera da Brindisi, era un viaggio importante di un giorno e mezzo, non l'abbiamo potuto fare, ma non è... Al di là del rimborso, lei dice, è la mancanza di rispetto. E dispiace questa percezione diffusa dei viaggiatori, di chi viaggia spesso e sperimenta le procedure, diciamo così, di diverse compagnie. Dunque all'Italia non può rendersi conto dei costi di queste leggerezze, chiamiamole così, manageriali. Lo chiediamo a David Yarak, docente senior presso la Bocconi e consulente di direzione per le imprese del business aereo, perché è un business vero e proprio. Buongiorno, benvenuto in trasmissione, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha dei costi dare un'immagine della propria azienda di questo tipo, dei costi che forse non vengono bilanciati dall'overbooking. Ma guardi, innanzitutto bisogna precisare una cosa, l'overbooking fa riferimento a un calcolo statistico, vale a dire che o tutti i vettori aerei, quindi non solo l'Italia, ma tutte le imprese che operano nel settore delle aerolinee applicano l'overbooking, chiaramente lo applicano in maniera più o meno estensiva, questo è un altro termine di discorso. Il punto è un altro, l'overbooking, dicevo, si basa su questo calcolo. Molto spesso, fatto 100 i passeggeri prenotati, una percentuale, i cosiddetti no-shows, non si presentano al gate. quindi non si imbarcano per varie ragioni. A questo punto i vettori aerei, per tutelarsi rispetto alla possibilità di avere aerei meno pieni rispetto al loro obiettivo, certamente un tema molto importante in questo periodo di crisi, fanno effettivamente una vendita sopra la loro disponibilità. Quindi l'overbooking nasce da questa tematica statistica barra commerciale. È evidente che chi subisce l'overbooking è oggetto di un, diciamo, di servizio che ha forti implicazioni di natura commerciale. La percezione di marca viene a essere naturalmente inficiata, la percezione della signora è corretta in questo senso, è chiaro che se io sono oggetto di un disservizio cercherò di non acquistare più il vettore che ha in realtà generato a me questo disservizio. Professore, il tema è un altro. Prima di passare al tema, Roberto Colaninno, cioè il presidente di Alitalia, va detto, ha dichiarato che la prassi dell'overbooking, questo per rinforzare quanto lei sta affermando, è un fenomeno abbastanza normale per giornate eccezionali come quelle di ieri, si riferiva al 2 agosto, e lo ha detto a margine di un incontro a Cortina d'Ampezzo. Colaninno ha aggiunto: abbiamo fatto il possibile per offrire ai passeggeri un riposizionamento su altri aerei, ha spiegato il presidente di Alitalia, o li abbiamo ospitati in altri alberghi vicini all'aeroporto con partenze per il giorno dopo. Mi pare siano stati 140 gli overbooking su una quantità di persone che ha superato le 100.000, assolutamente normale per questi giorni di altissimo traffico all'Italia. Tornando a lei, diceva il problema è un altro, professor Iarac. Il problema è che alcuni vettori aerei utilizzano in maniera estensiva, vale a dire troppo massiccia, la pratica dell'overbooking, altri lo applicano in maniera meno forte. Faccio solo riferimento a un caso degli anni 80, negli Stati Uniti, si chiamava People Express, fu uno dei primi vettori low cost, di cui oggi evidentemente si ricordano solo gli addetti ai lavori. Beh, People Express fallì proprio perché utilizzava in maniera troppo intensa l'overbooking, addirittura faceva abbastanza su base routinaria un overbooking del 140%, vale a dire vendeva in maniera abbastanza, diciamo, routinaria il 40% di posti in più rispetto a quelli offerti. E dunque sono lezioni, sono lezioni da cui... È chiaro, sono anche lezioni che vanno imparate a questo punto. Lei mi sta parlando degli anni Ottanta. Le chiedo una cosa, professor Iarac. Comunque, un overbooking all'inizio d'agosto, quando praticamente è prevedibile l'esodo di massa degli italiani, non è un po' azzardato? Vede, da un punto di vista teorico la risposta è sì, dal punto di vista pratico la risposta è no. Vale a dire, i vettori aerei fanno soldi quando li fanno, e non è questa la stagione commerciale, essenzialmente nel periodo estivo, quindi nel periodo tra giugno e settembre. È evidente che se bruciano anche questa opportunità commerciale, evidentemente le loro perdite tendono a incrementarsi. Quindi direi teoricamente sì, ma praticamente no. Si fa anche in agosto perché bisogna effettivamente in questo periodo proprio di picco di stagione cercare di massimizzare i ricavi. E dopo un disagio di questo tipo... In aziende, a prescindere dall'Italia, lei naturalmente ha sotto mano, diciamo così, i modelli, le policies applicate anche da altre compagnie, a prescindere da quella italiana. Dopo una problematica di questo tipo, come quella che si è creata a Fiumicino, per esempio, domenica, chi paga in termini di responsabilità, però, non di euro? Cioè, c'è qualcuno che viene licenziato, rimosso, qualcuno che viene responsabilizzato per quanto accaduto? Ma quasi, la risposta in chiave organizzativa è no, c'è solo una risposta in chiave, diciamo, regolamentativa, vale a dire la Commissione europea e l'Unione europea stabiliscono che in virtù dell'overbooking le compagnie aeree devono dare obbligatoriamente determinati rimborsi economici, viaggio su altri vettori, quello che citava prima Colaninno aveva detto nella sua affermazione. Certamente poi c'è anche un altro elemento importante, alcuni vettori, diciamo, virtuosi tendono a eccedere queste norme, quindi a dare qualcosa di più rispetto a quello che la legge stabilisce per quanto riguarda le compensazioni sull'overbooking, e questo diventa ancora una volta un fattore commerciale per cercare di ricostruire quella fiducia minata col passeggero e mantenere evidentemente il valore di marca con lui. Per avviare i disagi di tutti i passeggeri coinvolti saranno ripagati, in alcuni casi addirittura sono già stati pagati da parte di Alitalia indennizzi per 250 750 euro nel caso di voli internazionali, 750 euro per quelli intercontinentali, anche se altre fonti danno cifre diverse. A chi invece ha dovuto aspettare fino al giorno dopo per poter partire, sono state rimborsate le spese di pernottamento. Ora voglio chiedere al presidente di Telefono Blu, Piero Orsoni, oggi con noi, se questo è sufficiente. Innanzitutto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Qui c'è un problema serio rispetto ai rimborsi. Noi non crediamo, diciamo, apertamente alla burocrazia dell'Unione Europea, di cui molto spesso invitiamo a farsi altri interessi, purtroppo sempre con i soldi nostri. Noi applichiamo il problema molto semplicemente. Noi questi regolamenti automatici che definiscono dai bagagli alle persone le quote che uno perde come se fossero scatolette già preconfezionate non ci piace. Bisogna vedere intanto quello che è accaduto alla persona, che cosa ha fatto, perché facciamo un esempio: aveva una vacanza, parliamo in generale chiaramente, di 7 giorni, 2 giorni vengono meno per mancata coincidenza. Per noi non si tratta di dire sono una cifra tot, sono il perfetto corrispondente di quello che io non ho più. Cioè lei chiederebbe una valutazione da caso a caso? Questo sarebbe l'ideale? Sì, sì. Perché uno può viaggiare anche per motivi sanitari. Prima di inventarsi delle class action che non esistono, o delle class action che darebbero comunque forme di rimborso minori, noi siamo più preoccupati di stabilire un principio giuridico che poi casomai lo va a decidere il giudice. Questo è un diritto che è riservato a chiunque, indipendentemente dai regolamenti. Però io non voglio spingere a creare per forza una ricerca dei quattrini laddove non ci sono, bisogna essere molto onesti. Allora cosa bisogna fare per evitare che in futuro succeda? Da parte anche del passeggero, del consumatore, ci può essere un cambio di mentalità? Cioè, dunque, per esempio, scrivere, segnalare, cosa si può fare? No, il passeggero che subisce l'overbooking noi l'abbiamo stimati nei periodi nell'arco degli ultimi anni sui 10.000 mediamente, oggi se ne parla di più, sono i media più attenti, ma gli overbooking vengono fatti con grande uso, come veniva detto prima, con grande strategia. Il motivo lo sappiamo qual è. Noi diciamo di stare più attenti, di valutare con attenzione se il rimborso proposto è equo, è sufficiente, altrimenti preparare il tradizionale ricorso con raccomandate, chiedo un risarcimento maggiore, poi ce lo vediamo dal giudice di pace o eventualmente anche in tribunale. Grazie Pier Orsoni con questo consiglio. Va segnalato che anche i manager di Alitalia hanno affiancato il personale di terra all'aeroporto di Roma Fiumicino, e l'idea è stata dell'amministratore delegato dell'Italia Rocco Sabelli, che anche in prima persona si è messo lì in jeans e maniche di camicia per aiutare i disagiati. Concluderei col professor Yarak, l'augurio è che se li debbano mettere poco i jeans questi manager di Alitalia per il futuro. Che fare per evitare questi problemi? Beh, torno a ripetere, il tema dell'overbooking è un tema endemico. Per quanto riguarda l'Italia, naturalmente si spera che nei prossimi mesi tutti quei problemi derivanti dall'integrazione tra l'Italia e Ruanda, che ancora oggi creano una serie di problematiche operative, vengano a risolversi, e quindi che finalmente il processo della nuova Alitalia giunga operativamente a regime, cosa che ancora oggi è abbastanza lontano dai target operativi. E ci uniamo naturalmente a questo augurio. Grazie al professore Yarak, consulente di direzione per l'impresa del business aereo, al presidente di Telefono Blu Pier Orsoni, che è stato con noi, e alla viaggiatrice sfortunata, dobbiamo dirlo tra virgolette, Antonella Buonanome. 24 mattino. E in primo piano oggi la proroga dei militari in città, l'operazione Strade Sicure, che prevede l'impiego dei militari al fianco delle forze di polizia per la sicurezza nelle città, è stata prorogata di un anno. A partire da oggi il contingente delle forze armate aumenterà dagli attuali 3.000 a 4.250 uomini. La vicenda Rai, l'irritazione del presidente napoletano su Sky in una telefonata col presidente della Rai Paolo Garimberti, il capo dello Stato, avrà avrebbe espresso la sua delusione sulla rottura con Sky, non tanto sull'esito della trattativa, quanto sulle diverse modalità in cui è avvenuta rispetto a quanto avevano riferito a lui nell'incontro avuto al Quirinale. E ancora la moratoria, l'accordo banche imprese. Parleremo invece in 24 mattino di qualcosa previsto dall'ultimo decreto anticrisi, cioè la crescita dell'età pensionabile delle donne a 65 anni o in generale del prolungamento dell'età lavorativa. Bisogna pure conciliare però le esigenze del meritato riposo per chi ha lavorato una vita. Come fa per esempio una donna di 63 anni che lavora a conciliare anche gli impegni dell'occupazione con la cura dell'anziana madre, magari ultra ottantenne? Ci sono delle proposte interessanti, per esempio quelle di un demografo, Antonio Golini, e sarà nostro ospite. Prima però andiamo in Pakistan, nel villaggio di Korian, nella città di Goria, a ovest di Lahore, in Punjab, la parte pakistana del Punjab, dove 6 cristiani sono stati dati alle fiamme. Le scuole e l'università cristiana in Pakistan rimarranno chiuse per 3 giorni in segno di lutto per l'omicidio. Altre fonti dicono di 8 persone, tra queste ci sarebbero 2 bambini. Centinaia di musulmani avevano assaltato in un vero e proprio pogrom il quartiere cristiano di Goira, dando alle fiamme decine di abitazioni. I cristiani sono stati bruciati vivi, altri 2 sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. E a scatenare le violenze, le accuse che alcuni cristiani in qualche modo avessero profanato il Corano. Ma come è andata? Lo chiediamo a Lorenzo Cremonesi, inviato che sul Corriere della Sera ha raccontato la vicenda. Buongiorno Lorenzo. Pronto? Sì, buongiorno, sì. Buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo, tra l'altro la linea è ottima. Con chi hai parlato, Lorenzo Cremonesi? Ma io ho avuto, prima di tutto sono stato in Pakistan parecchio negli ultimi tempi e ho fatto un lungo pezzo sulla persecuzione e le difficoltà per i cristiani l'anno scorso, e tramite questi contatti sono arrivato a padre Yaqub. Io in questo momento sono a Kabul, quindi ho fatto tutto per telefono, e ho parlato con padre Yaqub, che è un francescano e che è proprio originario del villaggio colpito da questo pogrom, non esito a usare questo termine, il quale mi ha raccontato che già da un po' di tempo la situazione stava diventando complicata per i cristiani. C'erano state avvisaglie e minacce in connessione anche con le operazioni contro i talebani nella vallata di Swat, che è nel nord del Punjab al confine con l'Afghanistan. E qualche tempo fa, un 5-6 giorni fa, c'era stata una grossa festa di matrimonio cristiana in un villaggetto vicino alla zona colpita poi appunto dal pogrom, dove come si fa in Pakistan, ma anche poi dalle nostre parti, oltre al riso gettato sulla coppia, erano stati gettati anche dei fogliettini, dei bigliettini, lui dice, come coriandoli, a mano, con dei salmi, coriandoli, con dei salmi, con dei salmi di benedizione e di augurio alla coppia. Alcuni musulmani avrebbero detto che invece si trattava di pagine di un Corano strappato, e da qui è scattata l'accusa di avere appunto profanato il Corano. I cristiani nell'area, consapevoli che la cosa stava diventando grave, si sono naturalmente barricati, si attendeva qualcosa del genere, ma non così grossa. La mattina di sabato, dicono, almeno mi ha detto padre Yaqub, che è proprio originario della zona e mi parlava dalle abitazioni distrutte, sono arrivati 8 camion, 8 autobus carichi di militanti, lui diceva molte facce sconosciute, quindi cioè venute da fuori, non gente del villaggio. E tra l'altro racconti che tra le vittime ci sono stati anche i 2 nipotini del padre con cui hai parlato. Lui mi parlava tra l'altro da una stanza dove erano i corpi dei 2 nipotini, e ci sarebbe stato questo attacco veramente prima a colpi di pietre, bottiglie motor con benzina eccetera, e poi addirittura spari e l'uso, dice, di almeno di un mortaio, di un lancia granate contro le abitazioni dei cristiani. Dunque, sembra che naturalmente l'episodio del matrimonio, del Corano strappato, sia in realtà stato preso a pretesto da qualcuno che comunque voleva compiere questo attacco. Noi abbiamo cercato il nunzio a Islamabad, Monsignore Tito Ilana, ma per parlare con noi ha bisogno dell'autorizzazione del pontefice. Dunque, vi riportiamo quello che ha detto a Radio Vaticana. Il nunzio ha dichiarato che i cristiani soffrono, e non è la prima volta, e non è una questione di religione, è proprio mancanza di umanità di un gruppo che vuol soggiogare un altro gruppo, che è la minoranza. Cioè, ha contestualizzato questi episodi. La legge anti-blasfemia, questa blasphemy law, in realtà autorizza in qualche modo, anche se non le promuove, è chiaro, certi estremismi, in quanto prevede addirittura la punizione capitale per chi oltraggia, per chi insulta il Corano. Certo che chi viola la blasphemy law non può essere deciso così a furor di popolo da una folla inferocita, c'è un vero e proprio processo, ma sono moltissime le associazioni anche di pakistani all'estero nel mondo che premono sul governo perché elimini questa blasphemy laws dall'ordinamento giuridico, così che non ci possano essere pretesti ulteriori. Noi abbiamo chiesto dunque a una rappresentante del governo pakistano in Italia, l'ambasciatore o ambasciatrice Tasneem Aslam, qual è la posizione ufficiale del suo governo. Che siano musulmani, indù, cristiani o sikh o di qualsiasi altra religione, non importa. Questi sono nostri cittadini. E se anche uno solo tra i nostri cittadini viene attaccato, per noi è motivo di preoccupazione. L'uccisione di 6-7 cittadini a Goira non è stato solo un atto di barbarie, ma viene considerato un attacco a cittadini pakistani. E noi vogliamo assicurare alla giustizia chiunque sia responsabile di questi atti. Già quasi un centinaio di persone coinvolte in questo attacco sono state arrestate e le indagini stanno proseguendo. Pensa che ogni parte del Pakistan sia sicura per i cristiani o altre religioni di minoranza? Certo che è sicuro. Tutti voi sapete che ci sono stati episodi di violenza e attacchi terroristici in Pakistan. I terroristi non fanno distinzioni tra cristiani, musulmani e altre religioni. Quindi, quanto è accaduto a Goira non lo consideriamo un attacco diretto contro i cristiani, ma semplicemente come un altro degli attacchi terroristici che ha come obiettivo la gente del Pakistan. Ma è vero che le leggi anti-blasfemia colpiscono in particolare i gruppi cristiani? Le leggi anti-blasfemia ci sono nel sistema giuridico di molte nazioni. In altre nazioni comunque essere blasfemi non è reato. Ma solo perché è una legge non significa che dà diritto a me, a lei o ad altri cittadini di decidere quando è stato commesso il reato di blasfemia. Non è prerogativa del popolo farsi giustizia da sé. Quello che le leggi anti-blasfemia dicono è che chiunque si sente ferito nella propria sensibilità religiosa può rivolgersi ad un tribunale ed è il giudice, solo il giudice, che deve decidere se il reato di blasfemia è stato commesso o meno. Lorenzo Cremonesi, hai sentito la posizione del governo pakistano? Sembra che addirittura tra gli assalitori qualcuno abbia assimilato i cristiani e la loro religione a quella dei soldati americani, e dunque anche questa situazione inasprirebbe e renderebbe difficile la convivenza. Certo, questo era uno degli slogan lanciati dagli aggressori, ma direi che è ovvio che la rappresentante pakistana a Roma non può che dire quello che ha detto, fa il suo mestiere. In realtà questa cosa, questo problema della blasphemy law è un vecchio problema, e mi dicevano sia l'annunciatura a Islamabad, ma sia quando ho fatto questa inchiesta sui cristiani, i vari leader delle varie comunità, anche a Peshawar, che è un'altra delle grandi comunità a rischio, attaccata tra l'altro con quei famosi episodi di chiese bruciate ancora nel 2001-2002, che viene usata in modo molto diffuso. Cioè, se un musulmano ha un contenzioso con il vicino cristiano per proprietà, per soldi o per altro, oppure perché c'è stato un litigio per altro motivo, per lui è molto semplice andare al tribunale locale e dire, guardate, questo signore ha offeso il Corano, ha offeso la figura. Invocare queste blasphemy law che fanno un po' da paravento a tante cose, per questo se ne invoca la rimozione. E Lorenzo Cremonesi, grazie naturalmente per il tuo racconto, ma prima di lasciarti qua, l'attualità ci spinge a preoccuparci anche per un altro fronte. Tu sei a Kabul, forze talebane, dice l'ultima agenzia, hanno lanciato dall'alba di oggi una decina di razzi su Kabul. Cosa sta succedendo? Sì. Siamo all'approssimarsi delle elezioni presidenziali previste per il 20 di agosto, è in crescita il numero degli attentati. Abbiamo visto anche il grave attentato di Herat ieri, che ha causato almeno 12 morti. Herat è importante per l'Italia, visto che abbiamo la presenza del nostro contingente proprio accentrata a Herat. E questa mattina, all'alba, ancora quasi nel pieno della notte, sono stati tirati alcuni rockets, alcuni missili, alcuni colpi di mortaio nella cosiddetta Green Zone, qui proprio un termine che richiama anche quella di Baghdad, dove sono asserragliati, possiamo usare questo. Io tra l'altro mi ci trovo, sono proprio sì, fisicamente. Sì. Ecco, sono proprio lì, sono qui, e questa zona si chiama Wazir El Barkan, dove sono situate le ambasciate, anche la nostra ambasciata. Ma l'obiettivo qual era? L'obiettivo era l'aeroporto, come dicono alcuni? Ma l'obiettivo è destabilizzare, l'obiettivo è dimostrare che il paese non è sicuro. I talebani hanno detto a chiare lettere che non accettano la logica elettorale, che sono contro il voto, minacciano di assassinare chiunque andrà a votare nelle zone dove lo possono fare. E tra l'altro parlavo proprio, sono qui seduto con un uomo d'affari che vive a Wazir El Barkan, mi ha detto una bomba è caduta a meno di 80 metri da casa mia, ecco perché cerco di tenere mia moglie e mio figlio a Dubai. Quindi terrorizzare, dare fastidio a chiunque sia in qualche modo vicino all'Occidente, alla comunità occidentale, ad ISAF e a un processo di normalizzazione del paese. Grazie per queste preziose corrispondenze, Lorenzo Cremonesi. Naturalmente approfondiremo nel corso dei notiziari in tutta la giornata su Radio 24 le ultime informazioni che arrivano da Kabul e da questo fronte del lancio dei razzi, così come il tema che abbiamo trattato, le persecuzioni dei cristiani in Pakistan. Grazie all'inviato del Corriere della Sera. Tra poco parleremo invece di età pensionabile. 24 mattino. 48 minuti trascorsi dopo le 8 e l'Europa ricomincia a fare figli. Tocca quota 499,8 milioni di abitanti nel 2009, ma l'Italia è sempre ferma tra i tre paesi dell'Unione Europea con la natalità più bassa. E dunque, in vista di una conferma di questa tendenza, come pensare alla pensione di domani? Come si possono, per esempio, riscrivere le regole dello Stato sociale? Recentemente è stato deciso che anche le donne gradualmente alzeranno nel settore del pubblico impiego l'età pensionabile fino a raggiungere quella attuale degli uomini a 65 anni. Abbiamo chiesto a un demografo che ha delle proposte molto interessanti come valuta il futuro dal punto di vista previdenziale dell'Italia e quali sono le strade che è giusto percorrere. Dunque ringraziamo il professore Antonio Golini, docente di demografia alla Sapienza di Roma, per la sua presenza oggi. Buongiorno, benvenuto professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Come valuta innanzitutto lei questa equiparazione graduale dell'età lavorativa delle donne a quella dell'uomo? Sempre nel settore del pubblico impiego, stiamo parlando di questo per ora. Sì, è sempre con la giusta e doverosa gradualità che è stata prevista, perché questi sono provvedimenti che, come tutti quelli di ordine sociale e demografico, non possono essere fatti come quelli economici con la finanziaria dell'anno. Quindi un innalzamento molto graduale e molto, molto progressivo. Allora, io lo valuto molto bene, devo dire, perché per diverse ragioni. La prima, perché una donna di 60 anni attualmente in media si può aspettare di vivere fino a 86 anni, cioè c'ha una aspettativa di vita di ulteriori 26 anni, e l'uomo invece a 60 anni ha un'aspettativa di vita ulteriori 22. Quindi le donne già vivono, fortunatamente per loro, 4 anni di più degli uomini una volta che siano riusciti a toccare il traguardo dei 60 anni. Allora, certo, professore, che scusi, un'osservazione molto banale, noi che non siamo demografi, gli ultimi 26 anni di vita naturalmente non si svolgono in condizioni anche fisiche equiparabili ai primi o ai centrali 26 anni di vita. Sì. Quindi il lavoro... Non c'è dubbio, però i dipendenti dello Stato, fra i quali io sono, non è che facciano lavori, salvo pochissime unità, non fanno lavori particolarmente usuranti o logoranti, e quindi non si vede perché le donne debbano andare in pensione prima degli uomini, quando poi hanno 4 anni in media di più da vivere. Oggi più di un quarto delle donne muore in età superiore ai 90 anni, quindi fortunatamente la vita si è allungata e si è allungata di molto. Negli ultimi 50 anni di quanto? Negli ultimi 50 anni, guardi, di 3-4 mesi all'anno, e diciamo che per una sessantenne nel 1961, quindi circa 50 anni fa, non proprio 50 anni fa, l'ulteriore durata di vita era di 19 anni e adesso è di 26, come dicevo, quindi è aumentata di 7 anni. Un incremento sostanzioso. Ma veniamo alla sua proposta pratica, perché lei parte anche da una considerazione, ha scritto un articolo sul Messaggero di ieri che abbiamo recuperato, sulle donne, questo è innegabile, poi le cause insomma vanno discusse in altra sede, però sulle donne ricade la maggior parte o la quasi totalità delle cure da fornire alle persone anziane o alle persone con disabilità. Se abbiamo dunque una donna che lavora di 63 anni con un genitore o due genitori ultra ottantenni, come aiutarla dal punto di vista proprio della legislazione? Fino a questo punto l'Italia ricorre alle badanti. Lei lancia una proposta invece interessante. Dunque, la soluzione delle badanti è una soluzione molto positiva per alcuni versi e negativa per altri. Negativa perché intanto costano molto e costano molto alle famiglie, quindi noi abbiamo una situazione in cui il welfare va dalle famiglie verso lo Stato con le badanti e non viceversa, verso la collettività. E poi l'altra circostanza di cui bisogna tener conto è che spesso, non sempre per carità, ma spesso le badanti non hanno una qualificazione di tipo infermieristico e normalmente una persona disabile o con non autosufficienti avanti con l'età ha delle problematiche anche sanitarie che richiedono una certa competenza. Perfetto, che va perfetto. Oltre quelle generiche mansioni che una badante può svolgere. Perfetto. E dunque allora la proposta è quella di arrivare a una legge sulla assicurazione per la non autosufficienza. Questa assicurazione quindi... Obbligatoria però, lei dice. No, automatica, cioè voglio dire, non come quella dell'automobile, ma dall'altra parte se si è fatta una legge obbligatoria quella sulla assicurazione per l'automobile, si potrà pur fare una legge sull'assicurazione per la non autosufficienza. Questa legge è stata varata in Germania e devo dire che per reperire le risorse in Germania hanno rinunciato a un giorno di ferie, i sindacati sono stati d'accordo, i lavoratori pure, e quindi si è finanziato con questa rinuncia al giorno di ferie la legge sulla assicurazione per non autosufficienza. Professor Golini, abbiamo ancora un minuto. In pratica, lei forse adesso sta facendo riferimento anche a una realtà italiana, perché nella provincia di Bolzano già questa pratica molto civile esiste. In pratica, questa assicurazione cosa copre? Copre sempre tutti i problemi legati alla non autosufficienza e quindi assistenza domiciliare, assistenza infermieristica, assistenza nelle residenze sanitarie assistite. Cioè la non autosufficienza non è una malattia acuta per cui si cura quella malattia in un ospedale con un medico di base o con uno specialista e poi finisce lì. La non autosufficienza è destinata a essere lì per tutto il resto della vita e quindi pesa in maniera drammatica sia sulle casse mutualistiche sia sulle famiglie. Sulle famiglie, quindi, sulla vita anche delle badanti, includiamolo perché è stato segnalato anche un picco di depressione tra chi deve badare per mesi, per anni ad anziani non autosufficienti, certo non per colpa del malato, ma è un lavoro particolarmente logorante. Tra l'altro, ingratissimo. Tra l'altro invece questa assicurazione in qualche modo aiuterebbe anche l'occupazione di figure professionalmente valide. L'occupazione, per esempio, si può pensare a cooperative di cooperative con multicompetenze, da quelle infermieristiche a quelle psicologiche a quelle sociali, in maniera da stimolare l'occupazione e per far fronte anche a questo fenomeno che si immagina, visto la tendenza demografica che lei ci ha descritto, aumenterà. Ce n'è di materiale per riflettere. Grazie per questo stimolo, professore. Grazie a lei. È un demografo, Antonio Golini, docente di demografia alla Sapienza di Roma. Noi domani mattina alle 7:15 ritorneremo in compagnia dei nostri ospiti. Ancora una volta, ad aprire 24 mattino, sarà un corrispondente straniero che ci racconterà come vede, dalla sua prospettiva, l'Italia, questo paese e gli italiani. Da Irene Zerbini, un saluto.